Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati e Nessun luogo è lontano. Il saluto vi viene anche, come sempre, da Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone, che sono in redazione, e Fabio Cantadori alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi, per porre domande, suggerimenti o anche critiche e commenti: nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666. Poi ci trovate su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e su Twitter, Nessun Luogo 24. Ma quest'oggi, per iniziare, andiamo in Afghanistan. Andiamo in Afghanistan perché ieri, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, per la prima volta da 5 anni a questa parte, le vittime civili appunto in Afghanistan sarebbero calate del 15%. Cercheremo di capire meglio cosa c'è dietro alla crudezza e alla nudità di questi numeri. A 18 mesi dal ritiro delle truppe internazionali ISAF, a 18 mesi dalle presidenziali, quando scadrà il secondo mandato del presidente Karzai, beh, lo scacchiere afghano è sempre più complesso. Cercheremo di capirne di più con i nostri ospiti. Iniziamo immediatamente andando in Afghanistan. Andiamo nella valle del Panjshir, siamo a nord di Kabul, con Emanuele Nannini, coordinatore del programma di Emergency appunto in Afghanistan. Emanuele Nannini, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve Giampaolo, buongiorno. Allora, ti chiederei innanzitutto un primo commento su questi dati, che apparentemente, come dire, descriverebbero una situazione più tranquilla, meno violenta, in cui ci sono stati meno feriti tra i civili. Dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio come Emergency, che cosa ci puoi dire? Possiamo dire che dal nostro punto di vista i feriti che raggiungono i nostri ospedali, soprattutto quello di Kabul e quello di Lashkarga, che sono nelle aree più colpite dal conflitto, non sono diminuiti. I nostri numeri sono leggermente in aumento. Ovviamente noi, lavorando in ospedale, parliamo di numeri di feriti di arma da fuoco, feriti di esplosione o feriti di bombardamento. A volte questi tipi di feriti non rientrano nelle statistiche della UN, perché si tratta di feriti di violenza domestica o di liti private. Ovviamente c'è un altro dato che sarebbe interessante analizzare, che è quello dell'aumento della criminalità, soprattutto nelle grandi città, dovuto dall'esodo dei profughi dalle zone dove c'è il conflitto, che si vanno a accumulare nei campi profughi delle città o nelle periferie e alimentano tutto quello che è il suburbano illegale, perciò la criminalità, i furti e la tossicodipendenza. In questo caso i dati sono in aumento e noi la consideriamo come una causa indiretta del conflitto. Ecco, Emanuele, ti invito a rimanere con noi e ascoltare invece che cosa ci ha detto Fabrizio Foschini di Afghanistan Analyst Network da Kabul. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti fa e ha commentato così appunto questi dati rilasciati da UN, dalle Nazioni Unite. Sicuramente è una statistica rilevante, ma non è ancora, purtroppo non è ancora data l'ultima parola riguardo alla entità delle vittime civili che il 2012 potrebbe comportare. Le operazioni militari quest'anno sono state da ambo le parti, sia dalla parte di talebani o di altri gruppi armati che si oppongono al governo, sia dalla parte delle forze governative e delle forze NATO, sono state ritardate dalle condizioni atmosferiche in alcune zone. C'è stata sicuramente una mancanza di operazioni militari da parte dell'ISAF, della portata di quelle avutesi nel 2010 o in certi casi anche nel 2011. Questo può aver contribuito a ridurre le vittime civili, assieme a magari a una politica da parte dei talebani di evitare, diciamo di così, cercare di evitare di coinvolgere molte vittime civili nei attentati, anche se questo è stato smentito da alcuni episodi clamorosi. Per quello che riguarda l'uso che viene fatto da parte di attori politici, penso che, di nuovo, il conflitto in realtà sta pesando molto sui civili, proprio per una localizzazione del conflitto con il ritiro delle truppe ISAF e il progressivo trasferimento della responsabilità della sicurezza a truppe afghane. Molto spesso si scelgono scorciatoie come quella di creare o di facilitare la creazione spontanea, diciamo, di milizie pro-governative, approfittando della presenza chiaramente di una massiccia manodopera per compiti del genere, quindi di network preesistenti legati a questo o quel gruppo nei tempi della guerra civile, che possono essere riattivati con un minimo di finanziamento da parte del governo, da parte delle forze militari straniere. Questo sta portando alla creazione in molte zone di gruppi armati più o meno riconosciuti a livello ufficiale, che combattono o garantiscono la sicurezza, diciamo, contro i talebani. Questa crescita della prominenza di attori locali molto spesso porta anche a una specificazione del conflitto e a una maggiore incidenza sulla popolazione civile, perché questi vengono con una loro storia di magari rivalità locali, competono con i gruppi che si oppongono al governo, magari non tanto su un livello ideologico, diciamo, per il controllo delle risorse, che possono essere quelle legali o illegali, comunque infastazione della popolazione locale o narcotraffico, quello che è. Tutto questo porta, ad esempio, un altro dato che è stato evidenziato dal rapporto delle Nazioni Unite, è che rispetto agli anni precedenti uno dei componenti principali all'interno delle cause di uccisione di civili è, come dire, sono le uccisioni mirate, e questo chiaramente in Afghanistan significa nella maggior parte dei casi appunto una faida o comunque uno scontro tra famiglie o tra gruppi a livello locale. Credo che questo sarà un dato che purtroppo è destinato a crescere se il governo non riesce a sterzare e a far sì che la transizione della sicurezza venga in qualche modo riportata sotto il pieno controllo delle forze governative ufficiali, cioè la polizia e l'esercito, senza fare troppo affidamento su quelle che possono essere considerate delle scorciatoie per evitare che i talebani prendano direttamente il controllo di una zona nel momento in cui le truppe americane o le truppe straniere escono, ma non possono essere considerate delle strategie di sicurezza a lungo termine. Questo dunque è il primo commento di Fabrizio Foschini, che già iniziava ad aprire i primi squarci politici, ma su questo ci arriveremo tra pochissimo. Volevo tornare a quello che, come sempre quando vi sono conflitti prolungati, è il vero anello debole: la popolazione civile. Voi avete 3 ospedali in Afghanistan. Com'è la situazione sanitaria pubblica del paese? Gli ospedali funzionano, ricevono adeguatamente i feriti, soprattutto considerando non solo i feriti di guerra, ma, come dicevi tu, Emanuele, criminalità generalizzata, diffusa soprattutto nelle grandi città. La situazione del servizio sanitario è, dal nostro punto di vista, disastrosa, e purtroppo si sta prendendo già da diversi anni una piega abbastanza irreversibile, che è quella di puntare più sulle strutture private rispetto alle strutture pubbliche. Questo ovviamente in un paese come l'Afghanistan è un suicidio per la popolazione, che non si può permettere le cure, o quando se le può permettere rischia di portare all'astrico tutta l'economia familiare. Probabilmente l'aumento di vittime nel nostro ospedale potrebbe essere anche dovuta da questo fattore, cioè dal problema che hanno gli afghani stessi di trovare ospedali in grado di curarli. I feriti di guerra che curiamo sono feriti molto gravi, che hanno bisogno di cure sanitarie di alto livello, che scarseggiano quasi in tutto il paese. I nostri pazienti, soprattutto a Kabul, arrivano da circa a tutte le province centrali e nord del paese. Spesso i pazienti sono costretti a viaggiare anche per un paio di giorni prima di arrivare al nostro ospedale. Vagano ininterrottamente alla ricerca di qualche ospedale che sia in grado di curarli, ma non riescono a trovarli, e alla fine sono costretti ad arrivare nella capitale per trovare un servizio opportuno. Ecco, tra le cose positive, sì, che prego, possiamo notare il miglioramento sicuramente delle strade, cioè delle infrastrutture per i trasporti. Questo comporta sicuramente un allargamento del nostro bacino d'utenza, cioè i pazienti arrivano sempre da più lontano. Questo vuol dire anche però che la gente si muove di più e si espone un po' più al rischio di attentati o di trovarsi in mezzo a combattimenti. Storicamente il controllo delle strade e il controllo dei trasporti è sempre stato uno dei tasselli più importanti del controllo del paese. Grazie allora Emanuele Nannini, coordinatore del programma di Emergency in Afghanistan. Ci ha parlato dalla valle del Panjshir a nord di Kabul. Buona giornata, buon lavoro. Grazie mille. E noi continuiamo a parlare di Afghanistan, traendo spunto da questa rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite, dove insomma stiamo cercando di spulciare tra i numeri, tra quello che apparentemente potrebbe essere una buona notizia, cioè il la flessione è evidente, il 15% delle vittime civili. Stiamo cercando di capire in realtà che cosa sta dietro, le motivazioni, e quindi continuiamo a parlare del tormentato paese asiatico. Lo facciamo con un esperto di Afghanistan che è Gian Michele Sina, a cui do il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Gian, ti senti di commentare innanzitutto questa, appunto, questi dati? I civili sono sempre stati, come dire, l'anello debole in ogni conflitto. In un conflitto lungo come quello afghano la sofferenza è stata immane, però c'è questo dato che parla di un 15% in meno. Cosa succede? Le operazioni militari sono più accurate, sono più precise? Come si potrebbe leggere questo dato? Beh, alcuni elementi sono stati già focalizzati dagli altri vostri ospiti, ad esempio il fatto che i talebani hanno rinunciato ad esempio ai grandi attentati suicidi perché rischiavano di perdere l'appoggio della popolazione, si sono concentrati piuttosto sulle eliminazioni nei singoli villaggi, nelle singole zone, dei cosiddetti collaboratori, ovvero quelli che accettano di collaborare con l'ISAF e con le forze internazionali e col governo di Karzai. Dall'altra parte bisogna anche sottolineare che queste sono dall'altra parte anche il sintomo della stasi delle operazioni militari dell'ISAF dall'estate dell'anno scorso ad oggi. Insomma, sostanzialmente le truppe ISAF sono entrate in fase di attesa, quasi di stand-by, cioè non si lanciano più grandi offensive perché l'attesa è quella per il grande ritiro. Di fatto le operazioni militari e tutta la strategia è stata messa da parte e si attende solamente il ritiro del 2014. Sì. Questo è sicuramente un dato positivo se questo riguarda il risparmio di vite civili. Risulta un dato negativo invece nell'ambito di una strategia che doveva essere rivolta a risolvere il problema afghano. 349-238-6666, Nessun Luogo Chiocciola Radio 24, e poi su Facebook Nessun Luogo Lontano. Se volete porre domande a Gian Michele Sina, inviato di guerra, esperto di Afghanistan, di cui stiamo parlando quest'oggi. Gian giustamente diceva, stand by dal punto di vista dello scacchiere militare, mentre la politica si muove, e come? Proprio ieri il Parlamento a Kabul ha votato un impeachment, fondamentalmente ha dato la sfiducia a due ministeri chiave, uno era quello della difesa e l'altro era quello dell'interno. E allora abbiamo chiesto a Fabrizio Foschini, analista di Afghanistan Analyst Network, che cosa significa, che significato ha questa sfiducia da parte del Parlamento afghano su due ministeri così importanti proprio in questo momento. Intanto riflette la volontà del Parlamento di competere per il primato dell'efficienza, nel mostrarsi almeno una parte delle istituzioni afghane con la capacità di agire. È una cosa che fino adesso è mancata a questo Parlamento, dalla sua nascita abbastanza travagliata nel gennaio del 2011, fino adesso è stato prevalentemente bloccato in fazioni interne, è stato spesso manipolato, diciamo, dal Presidente, comunque dal Governo. Quindi c'era sicuramente la volontà sincera in molti parlamentari di agire in una maniera autonoma, forte, di dare un messaggio forte al Paese, al pubblico afghano, per anche, come dire, frenare, porre un freno al discredito della classe politica afghana verso la popolazione, che insomma ha raggiunto, credo, i minimi storici. Certamente la cosa che stupisce è che buona parte dei parlamentari considerati fedeli, diciamo, allineati con Karzai, ha partecipato a questa rimozione dei due ministri, e quindi è apparso abbastanza evidente che la cosa non doveva dispiacere poi eccessivamente a il presidente, al suo, diciamo, ufficio presidenziale. Nessuno si è mosso per difenderli, si stanno evidentemente dei sostituti e insomma, in qualche modo è chiaro che da un lato anche per Karzai stesso non è stato uno sviluppo negativo, e probabilmente in realtà c'è stata una sorta di segnale di via libera dato almeno a quelli che sono i suoi, come dire, referenti nel Parlamento durante il voto, poco prima. Questo è quello che agita i palazzi della politica afghana, e intanto si sono agitati anche gli ascoltatori sulla mia provocazione, perché ve lo leggo dopo la domanda interessante, la rivolgerò a Gian Michele Sina. Intanto la borsa, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. La guerra in Afghanistan fa forse meno male? Questa è la domanda che ci si pone leggendo il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato ieri, in cui si scrive chiaramente che nei primi sei mesi di quest'anno, del 2012, il numero delle vittime, feriti e morti civili sarebbe caduto per la prima volta da 5 anni a questa parte del 15%, però poi a ben vedere, a spulciare i numeri e, come dire, a illuminare i chiaroscuri di queste fredde statistiche, si scopre che le operazioni militari sono comunque più o meno in stand-by, come ci riferiva Gianmichele Sin, ma anche Foschini, appunto, da Kabul. Insomma, bisogna saper leggere tra i numeri, perché non sempre fotografo adeguatamente le situazioni, soprattutto quando si parla di guerra. 349-238-6666 è il numero a cui ha messaggiato un ascoltatore, che dice testualmente: ma quale miglioramento della situazione? È solo iniziata la campagna informativa degli americani pro rielezione di Obama. Gianmichele Sin, qua si apre un capitolo fondamentale, insomma, no? Non dimentichiamoci che Obama ha usato l'Afghanistan sia nella sua prima campagna elettorale, promettendo una grande offensiva che avrebbe cambiato le sorti del conflitto, e l'ha usato a metà di questa sua presidenza per preparare la propria campagna elettorale, promettendo il ritiro. Quindi due mosse assolutamente contraddittorie. Nel 2008 tutti ci eravamo illusi, prima di tutto il sottoscritto, autore di un libro, Afghanistan, sfida che non possiamo perdere, di un Obama capace di rilanciare un Afghanistan che è stato dimenticato per molti anni dalla presidenza Bush, mettendo Petraeus, McChrystal, quindi il top dei comandanti militari, a dirigere le operazioni e lanciando una strategia che fosse in grado di guadagnare il consenso popolare, che fosse in grado di creare un esercito, una polizia, cioè tutti gli elementi fondamentali per garantire un ritiro. A metà del mandato Obama ha fatto una rapida marcia indietro, ha annunciato un ritiro che però, per essere attuato, manca delle sue caratteristiche fondamentali, ovvero sia non è stata creata la governance, la capacità di governare l'Afghanistan, non è stato creato un sistema in grado di reggersi, non è stato creato un esercito capace, una volta ritiratosi le forze straniere, di garantire la sicurezza del paese. Ecco, e se Bush aveva lasciato solo l'Afghanistan, in parte anche Obama, no? Con questa contraddittoria politica, se volete un po' il simbolo è il presidente afghano Karzai, perché questo suo grande farsi in vista del ritiro, appunto, fra 18 mesi e di una sua possibile rielezione, in realtà non si sa perché ha già fatto due mandati, non ha detto chiaramente che cosa farà nel 2014, però questo rimpasto di governo, questo rimpasto che lui, defenestrando i due ministri, sta preparando, è un po' una risposta a una sua solitudine politica. Lui deve un po' attrezzarsi, corazzarsi, perché poi alla fine rimarrà da solo lui coi talebani. Abbiamo chiesto come si può leggere questo impeachment, appunto, ai due ministri che dicevo, se si può leggere come una strategia proprio in vista del ritiro delle forze ISAF. E quindi ascoltiamo Fabrizio Foschini di Afghanistan Analyst Network. Sì, io temo che bisognerà valutare questo aspetto strategico dell'impasto, bisognerà aspettare di vedere quali sono le nuove nomine. Per il momento ha più un impatto immediato sugli equilibri interni del governo, a un livello politico ha un effetto molto importante, anche perché erano due pezzi grossi, erano loro entrambi i ministri rimossi. A livello strategico, per quello che riguarda le operazioni, per quello che riguarda la transizione nel settore della sicurezza, in realtà la rimozione dei ministri non è per forza di cose l'unica variabile influente in questo, nel senso il processo di transizione continuerà, immagino, a prescindere da chi sarà il nuovo ministro e a prescindere appunto da quanto sarà lungo questo periodo di mancanza di una vera figura forte a livello ministeriale. Le problematiche che esistevano rimarranno e, diciamo, le poche cose positive che si sono viste fino adesso si spera non verranno danneggiate. Per quello che riguarda invece l'impatto sulla competizione politica in Afghanistan, io credo che ci siano i risvolti più interessanti. Probabilmente per Karzai è un momento molto delicato, come tu dicevi, non solo dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista di garantire la stabilità a livello militare della sua compagine governativa, ma anche a livello politico, perché nel 2014, oltre al ritiro totale delle truppe ISAF, ci saranno anche, dovrebbero essere almeno, previste le elezioni presidenziali, e quindi in realtà si sta lavorando anche su quel piano, si è cominciato nelle ultime settimane soprattutto a lavorare anche per costruire un team per la campagna elettorale, e quindi Karzai vede di buon occhio l'avere, ad esempio, la possibilità di promettere posizioni ministeriali, inaugurando una stagione di rimpassi, una stagione di cambiamenti all'interno della compagine del gabinetto, diciamo, può ridare forma alle sue alleanze politiche, ed è sempre stata la sua arma migliore a un livello elettorale, nel senso quello di promettere a un mucchio di persone dalle più disparate provenienze politiche questo o quella posizione ministeriale e, come dire, portarli dalla sua parte. Da un altro lato invece si è cominciata anche una campagna mediatica, chiaramente molte di queste accuse che adesso ne citerò ad esempio una, il ministro della finanza, un personaggio anche molto autorevole, un cosiddetto tecnocrate, ben visto ad esempio anche dagli americani, che aveva annunciato in maniera ambigua, perché chiaramente le elezioni sono ancora molto lontane, ma stava cominciando a proporsi come un possibile candidato presidenziale, è stato investito da una raffica di accuse di avere accettato mazzette, aver intascato denaro statale illecitamente, e praticamente viene messo la berlina quotidianamente sui principali mezzi mediatici. Questo credo che sia la punta dell'iceberg. Penso che nella corsa elettorale ci saranno moltissimi episodi del genere, utilizzati un po' da tutte le parti, e molto spesso con buona ragione, nel senso basati su accuse realistiche, ma il fatto che questo venga utilizzato in una maniera così evidente, così massiccia adesso, insomma, lascia pensare che sia una delle principali nuove armi nella competizione politica in Afghanistan, perché chiaramente il soggetto della corruzione, il soggetto della mancanza di efficienza del governo è diventato un po' uno dei temi principali per l'opinione pubblica, nel senso si gioca molto su quello e sulla sicurezza. E la sicurezza è certamente uno dei temi caldi e forti dell'Afghanistan del futuro, perché già Michael Sin aveva anticipato un po' questo tema. La polizia afghana viene addestrata periodicamente dalle forze internazionali, periodicamente però vi sono conflitti, nel senso di fuoco amico, non so neanche come definirlo, ma comunque infiltrati dei talebani, che proprio durante questa operazione di addestramento sparano contro i loro addestratori. E questo è solo un esempio di quanto sia difficile poi intanto arrogarsi, diciamo, il diritto di imporre, di insegnare una sicurezza, ma poi di gestirla e di trasmetterla veramente. Gian Michael Sin, da questo punto di vista tu hai visitato più volte anche recentemente l'Afghanistan, conosci molto bene la situazione. Quanto un Afghanistan tra 18 mesi lasciato nelle forze di sicurezza afghane sarà realmente sicuro? Immaginiamo uno scenario elettorale senza una presenza straniera militare. Un scenario elettorale dovrebbe presupporre il fatto che ci sia la possibilità di svolgere tecnicamente le elezioni. Se pensiamo a un ritiro immediato, immaginiamoci che gran parte delle unità, molte unità della polizia si sbanderanno, diserteranno, come già fanno, e quindi la sicurezza locale non sarà garantita. Molte unità dell'esercito non sono ancora in grado di combattere sul terreno, e molto probabilmente anche queste si praticamente scompariranno una volta ritiratesi. Resteranno poche unità dell'esercito, quelle meglio addestrate, fra queste anche probabilmente quelle addestrate dell'esercito italiano, ma sostanzialmente una forza non sufficiente a garantire l'unità del paese, la sicurezza in tutto il paese, la sicurezza della popolazione civile, non sicuramente sufficiente a garantire le elezioni. E questo sarà il grande sfascio che succederà all'indomani del ritiro occidentale. Ecco, questo io lo prevedo purtroppo e lo vedo come quasi inevitabile. Ecco, se dovessimo tirare le fila e fare i conti, alla fine questa lunghissima operazione delle forze internazionali in Afghanistan, come dire, ha ben pochi motivi di successo, mi pare di capire, perché insomma, che cosa si può salvare? Tutti noi ricordiamo anche degli errori marchiani incredibili attribuiti all'esercito americano, le copie del Corano bruciate, no? Il soldato americano che dà di matto e spara sui civili, cioè ci sono stati degli errori incredibili dalle conseguenze anche, come dire, ideologiche devastanti. Che cosa possiamo salvare di questi anni e anni di presenza straniera in Afghanistan? Potremmo salvare quella crescita dei pochi afghani che hanno collaborato con le forze occidentali, che sicuramente hanno una visione più moderna dell'Afghanistan. Alcune unità dell'esercito, appunto, che sono state addestrate, che hanno raggiunto un livello di efficienza, ma per il resto purtroppo alcune opere, alcune scuole, alcuni ospedali. Ecco, quello che è interessante, ad esempio, che emerge in alcune province adesso, è delle rivolte antitalebane in alcune province che sono sempre state la roccaforte dei talebani, come la provincia di Ghazni, la provincia del Kunar, del Nuristan, dell'Agman. Si registrano delle rivolte contro i talebani che vogliono chiudere le scuole, che vogliono chiudere gli ospedali, ovvero sia i simboli della presenza occidentale, dell'educazione, della sanità. Ecco, questo forse ci fa presagire che in Afghanistan il mosaico è molto più complesso di quello che vediamo in apparenza, ovvero sia di fronte al dualismo tra governo Karzai e forze straniere da una parte, e i talebani dall'altra, c'è un assetto molto più composito di forze locali che non accettano il controllo dei talebani, visti molto spesso come la mano armata del Pakistan. Sì. Ti chiedo invece telegrafico un commento, perché Foschini in apertura di trasmissione parlava di queste milizie locali che vengono addestrate e armate. Quello potrebbe essere un po' un fattore X destabilizzante da questo punto di vista? Ma le milizie locali non sono state un grande successo. Le ho viste all'opera, ho visto le forze speciali americane che le addestravano. C'è sempre il solito problema, l'incapacità degli americani di entrare in sintonia con gli afghani sul terreno. Gran parte di queste forze tribali sono state scelte a casaccio, sono state scelte sulla base dei soldi che loro accettavano, e quindi hanno creato delle forze corrotte che non sono in grado di contrapporsi ai talebani o sono pronte a passare con i talebani non appena questi gli offrono qualche soldo in più. I fallimenti della missione ISAF, ma anche insomma le zone di luce che stiamo cercando appunto di focalizzare con Gianni Calessini, inviato di guerra del giornale esperto del paese asiatico. Intanto al 349-238-6666 arrivano altri commenti. La NATO e gli americani in primis hanno perso la guerra. Karzai, dice un ascoltatore, scapperà negli Stati Uniti. Chissà, Karzai da molti ha additato come fantoccio degli Stati Uniti, non so se da qui si potrà prefigurare una sua fuga. È vero anche una cosa, che negli ultimi mesi, anni, Karzai se l'è vista brutta, perché alcuni omicidi mirati hanno toccato davvero da vicino il suo entourage. Allora, il futuro dell'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe tra un 18 mesi, insomma, se tutto va come è stato detto, l'Afghanistan dovrà camminare sulle sue gambe sia dal punto di vista politico che dal punto di vista militare. Ascoltiamo l'ultimo intervento di Fabrizio Foschini, analista esperto del paese, sulla capacità del governo Karzai e della politica afghana di camminare sulle proprie gambe. Il governo Karzai, presumo che anche nell'ottica di proporre un passaggio del testimone decente al loro futuro candidato, che potrebbe essere un membro della famiglia Karzai, come uno dei fratelli di Karzai, diciamo, in quest'ottica cercherà di non arrivare al 2014 completamente delegittimato, come in parte è adesso. Quindi ci potrebbe essere un tentativo di allontanarsi dai, diciamo, i nomi peggiori, più vistosi fra gli esponenti dell'elite politica uscita dalla guerra civile, i cosiddetti warlords, anche se questo è molto difficile da effettuare per via della rete di contatti politici e economici che Karzai ha intessuto negli ultimi 10 anni con loro, e anche per via del fatto che questo potrebbe comportare delle esplosioni di violenza in parti del paese dove questi personaggi hanno supporto per la popolazione locale o comunque gestiscono, tengono le redini del potere economico e politico locale. Comunque, per quello che riguarda la politica, anche nel senso della possibilità di arrivare a negoziati con un esito positivo con quella che è l'opposizione armata, cioè i Taliban e fondamentalmente gli islami, uno dei partiti islamisti degli anni 90, degli anni 80 e 90 che non hanno accettato il nuovo governo, credo che le prospettive in questo momento siano abbastanza negative, perché i Taliban stessi hanno una posizione molto ambigua riguardo ai negoziati per la pace. Dopo il fallimento del tentativo effettuato in Qatar all'inizio di quest'anno, penso che si proporranno altri paesi stranieri come mediatori, si cercherà di trovare delle nuove iniziative per ridare il lancio al negoziato, ma il problema è che la leadership talebana non si può permettere, se ammesso che cerchi, abbia accettato l'impossibilità di una vittoria militare tout-court e voglia stabilire delle trattative serie per arrivare a un compromesso, si trova nell'impossibilità di fare qualunque passo in questa direzione per un motivo di morale, di propaganda, essendo un movimento militante. Non si può permettere il lusso di demotivare i combattenti che stanno affrontando lo strapotere delle truppe ISAF all'interno dell'Afghanistan riconoscendo il fatto che sì, siamo anche in trattative con i nostri nemici nel frattempo. Al tempo stesso il fatto che questa leadership si trova prevalentemente in esilio in Pakistan non le consente una grandissima libertà di manovra, ad esempio non è facile stabilire un luogo dove questa trattativa fisicamente potrebbe prendere piede. E uno degli obiettivi principali sul quale potrebbe dare alla leadership talebana il destro per dire va bene, questo l'abbiamo ottenuto, adesso possiamo parlare, è appunto il ritiro delle truppe, ma quindi bisogna aspettare fino al 2014. È chiaro che una volta arrivati al 2014 e senza più le truppe straniere a difendere il governo, rimane anche la tentazione di provarci a se non conquistare il potere a Kabul, a gestirlo in diverse province dove i Taliban sono molto forti, quindi da un punto di vista dei Taliban c'è proprio un problema di quali sono le prospettive della leadership talebana e qual è la sua possibilità di agire. ci potrebbero essere delle novità anche, anche presto sull'altro piano, su quello degli islami, che rimane comunque una componente minoritaria della guerriglia, e avendo una parte del partito che si è legalizzata ed è entrata in Parlamento e anzi è uno dei gruppi politici più forti all'interno delle istituzioni afghane, c'è sempre la possibilità di un improvviso calare la carta della riconciliazione degli islami per cercare di allargare il consenso e la stabilità del governo. Vedremo nei prossimi mesi. E questa è tutta la complessità del teatro afghano che stiamo cercando, per forza di cose in maniera ridotta, di tratteggiare quest'oggi grazie ai nostri ospiti. Gianmica Lessin è uno di questi, al quale volevo porgere la mia ultima domanda prima di lasciarlo al suo lavoro. Teatro complesso, abbiamo detto, l'Afghanistan è anche pericoloso. Un tuo libro di prossima uscita ricorda quanto è stato pericoloso, soprattutto per i militari italiani. Afghanistan sola andata, per Cairo Editore, all'inizio di settembre nelle librerie. Gian, che libro è? Sì, è un libro, ahimè, che racconta la storia di alcuni dei 50, la vita e la morte di alcuni dei 50 soldati italiani, oltre 50, 51 ormai soldati italiani caduti in Afghanistan durante questa missione. Ricordiamo, la missione con il più alto indice di mortalità dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, una missione in cui però l'esercito italiano si è fatto onore, ha dimostrato di saper non soltanto combattere quando c'era da combattere, ma anche di saper assistere la popolazione civile con le capacità che solo gli italiani hanno, di saper addestrare l'esercito formando alcune delle migliori unità dell'esercito afghano, tra le poche in grado di competere sul terreno, e soprattutto si è dimostrato come una delle migliori istituzioni italiane. Un momento di crisi in cui l'Italia viene poco rispettato dai propri alleati in ambito internazionale, l'unica cosa per cui viene rispettata, di cui vengono esaltate le competenze, è l'esercito italiano. E diciamo che questo, per un esercito che in Italia, nel nostro paese, era considerata la pulcinella delle istituzioni, è stato un bel riscatto. Grazie allora, grazie Gianmica Lessin, con te l'appuntamento sulle pagine del giornale e poi appunto in libreria all'inizio di settembre. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. E noi cambiamo decisamente pagina, andiamo in Cina. As the eastern Chinese city of Hefei prepares for China's most sensational trial in decades, discussion about the controversial case continues. At 8:30 a.m. on Thursday, Gu Kailai will stand trial. Perché oggi ha aperto i battenti, ma poi le accuse anche abbastanza in fretta, un processo storico dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico e per gli appassionati di cronaca giudiziaria anche dal punto di vista narrativo, perché adesso, grazie all'ospite che vi presento tra pochi istanti, capiremo meglio. Insomma, è poco meno di un giallo, di una spy story, tutti gli elementi per un film. La moglie di un alto dirigente del Partito Comunista Cinese accusata di un delitto, un uomo d'affari britannico avvelenato con il cianuro e oscuri giochi di potere nell'ombra. Buongiorno ad Antonio Talia di AG China 24. Buongiorno Giampaolo e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, aiutaci Antonio a capire meglio questo processo. Proviamo a riassumerlo, è abbastanza complicato come abbiamo capito. Gu Kailai, moglie di Bo Xilai, mi perdoneranno i puristi che si occupano del paese asiatico della mia pronuncia, è sotto processo per omicidio. Aiutaci a capire meglio. Sì, Gu Kailai, appunto la moglie di Bo Xilai, è questo leader che fino a pochissimi mesi fa sembrava proiettato verso il gotha del Partito Comunista Cinese, perché lo ricordiamo, tra qualche mese in autunno ci sarà una successione storica che avviene ogni 10 anni e Bo Xilai era proiettato verso il Comitato Permanente del Politburo, che è il vero cuore del potere cinese. La moglie, Gu Kailai, è una donna d'affari, è una avvocato di respiro internazionale, che qualche mese fa è stata accusata dell'omicidio dell'uomo d'affari britannico Neil Haywood. Si trattava appunto, l'accusa sostiene che sostanzialmente Gu Kailai, assieme all'uomo d'affari, trasportasse all'estero ingenti somme di capitali, ovviamente accumulati in maniera illegale. Al processo Gu Kailai è apparsa ingrassata e la sua posizione si è aggravata. Ricordiamo, il processo è durato solamente 7 ore, la sentenza è attesa nei prossimi giorni, però non è stata fissata ancora una data per la pubblicazione. Sì. È apparsa ingrassata, era alla sbarra insieme al suo cameriere Jiang Xiaojun, che in una prima versione dei fatti sarebbe stato la persona che ha materialmente avvelenato Neil Haywood. Invece, dalla versione che è emersa quest'oggi, la donna non solo non ha contestato l'accusa di omicidio, ma ha ammesso di essere l'esecutore materiale, quindi aver versato materialmente il veleno nel bicchiere che ha ucciso Neil Haywood. In realtà tutta la vicenda comincia molti mesi fa e appunto, come ricordavi, dei contorni da spy story che poi hanno un effetto sulla politica cinese dirompente, perché si tratta di fatto del peggiore scandalo che colpisce la Repubblica Popolare Cinese dai fatti di Piazza Tiananmen. Ecco Antonio, perdonami, ti interrompo, perché è abbastanza raro vedere, no, come dire, il Partito Comunista Cinese che si mette in discussione, che in qualche modo denuncia, no, le proprie fragilità all'interno. Quanto questo processo, che è seguitissimo anche in Cina, come dire, è il segnale di un'apertura, di una trasparenza, di una messa in discussione? Quanto sta scardinando quei duri pilastri del regime cinese? Credo che li stia scardinando affatto, anzi penso che stia confermando un po' tutto l'atteggiamento che il regime cinese mantiene abitualmente. Bo Xilai, perché appunto si colpisce la moglie, ma si colpisce anche il leader stesso, che ricordiamo per questi fatti è stato sospeso da tutte le cariche che occupava precedentemente, era un po' un outsider nella politica cinese, era un politico molto carismatico, molto telegenico, che aveva scatenato una campagna anticorruzione senza precedenti sulla città di cui era segretario, Chongqing, una megalopoli da 30 milioni di abitanti, e contemporaneamente era anche il fautore di una sorta di revival maoista molto nostalgico, mandava, appunto costringeva o promuoveva i cittadini promuoveva la sua politica, la sua figura attraverso canzoncine neomaoiste, attraverso slogan alla rivoluzione culturale. In sostanza si è cercato di ostacolare, secondo molti analisti, l'ascesa politica di Bo Xilai attraverso questo processo, che appunto ha dei contorni ancora molto scuri. Ricordiamo che tutto quello che è emerso dal processo è emerso attraverso indiscrezioni, voci diffuse soprattutto attraverso i social network, e a un certo punto in Cina si è avuta la netta impressione che in qualche modo il Dipartimento della Propaganda abbia preso controllo dei social media per propagare appunto la versione ufficiale di quello che stava accadendo. Insomma, in buona sostanza un regolamento di conti interno al regime che poi ha un riflesso mediatico, come ci stai narrando, insomma anche intrigante dal punto di vista, se vogliamo, no, della sceneggiatura, della messa in scena. Antonio Talia di AG China 24, grazie per la tua lettura, ci hai aiutato a capire meglio questa complessa vicenda giudiziaria in un paese lontano. Buona giornata, buon lavoro. E a me non resta che ringraziare Mire Lucchetti, Massimo Brugnone che hanno scritto con me questa puntata, Fabio Contadori che gli ha dato la musica e il ritmo giusto, e voi, gentili ascoltatori, per essere stati anche quest'oggi con noi. Vi ricordo che potete commentare la puntata e porre ulteriori domande o suggerimenti su Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, su Facebook, nessunluogo@radio24.it, o su Twitter, nessunluogo24. Noi ci risentiamo domani, 6:30, come sempre, la replica, 9:10 del sabato, il meglio della settimana, ma domani, puntuali, 13:15, Nessun Luogo Lontano.